ad alta voce. Maria Paiato legge Il Comunista di Guido Morselli. 17ª puntata. Nancy si rifece vedere alla sera. Ferranini aveva dormito, si era alimentato, acquistava in tono cardiaco e tensione arteriosa, al punto che Newcomer aveva detto, allegro, ma lei era ammalato di sonno e di fame. La accolse volentieri. Le disse in inglese, grazie della visita. Aveva l'aria di non ricordare quella della mattina. Le domandò di nuovo che malattia avesse avuto. Come vedi, le disse poi, sono corso subito alla chiamata. Oh, è stato così buono da parte tua. E non è che io avevo fatto troppo per meritarlo. Niente altro sull'argomento. In compenso, trovava che il suo modo di ricomparire, sorpreso dalla bufera di neve, svenuto nella cabina telefonica, era stato tremendamente sentimentale. Sei sempre lo stesso tu, Walter. Solo a te poteva riuscire. E raccontava. Aveva fatto molte cose, tentato molte vie. Nel 47 era al Canada, nella provincia del Quebec. Imparando a conoscere i canadesi, aveva scoperto che un buon numero di loro aspira all'unione politica con gli stati. Entusiasta dell'idea, si era buttata a fare propaganda di annessionismo. Aveva messo su una sezione delle figlie della rivoluzione americana con più di 400 iscritte. Dal 49 al 52 era stata ad Anchorage, Alaska, come corrispondente di giornali. Lì si era imbattuta in Francis, anche lui giornalista, e fu una cosa meravigliosamente attraente, con mucchi di romancing, amore e reciproca integrazione spirituale, senza eccessivamente approfondire nell'uno nell'altra. Tu non comprendi, Walter. Sei italiano. 3 anni di rapporti e non un giuramento, non un litigio. Concessioni ragionevoli da tutte e due le parti. Io stavo all'albergo e Francis aveva un piccolo appartamento. Fine settimana insieme. Francis, un poco più giovane di me, leftist, sai, molto convinto e studioso di musicologia. Scriveva un libro su Schoenberg. Intanto io mi dedicavo agli interessi sociali, alla sociologia. Ci si aiutava, ci si incoraggiava. Definitely, tu forse non puoi realizzare. Davvero, non poteva realizzare. Fra il 49 e il 52. In uno di quegli anni lui aveva incontrato Nuccia, e si era accorto che Nuccia gli voleva bene. Sino dai primi incontri, quello che gli premeva era di avere trovato un essere con cui parlare di America e di Nancy. Non dici niente? Non mi dirai che sei geloso di Francis? Geloso. Con tanto pensare che aveva fatto a lei, l'idea che lei si fosse presa un amante non lo aveva sfiorato una volta. «Ma che cos'è questo odore?» le disse. «Non so, honey». «I fiori li hai portati tu. Troppo odore». Gli stessi fiori invernali, dall'odore acuto, che Nancy teneva in camera quel giorno che era andato a Midville, al collegio, da lei. Lei, docile, portò i 2 vasetti con i fiori nel corridoio. Ferranini si guardava d'intorno per la prima volta. Notò vicino al suo letto la bombola ossigeno. Newcomer, che veniva per il giro serale, capì, appena entrato, che il 203 si metteva benino. Tuttavia, spiegando che doveva auscultarlo, trovò modo di allontanare la visitatrice. «A domani!» «Certo, stavamo per darle l'ossigeno ed eravamo preparati anche a dirle addio. La sua miocardite è da paradigma, amico, e non lo impara adesso, suppongo». Avrebbe bisogno di fare una vita assolutamente tranquilla, lo capisce? Ma lei è un tipo dominato dal sistema nervoso. E la vita di relazione per i tipi come lei è un pericolo, ma poi è una grande risorsa. E a conferma diretta di quelle parole, Ferranini, partita Nancy, si sentiva più debole. Un ritorno di affanno gli schiudeva la bocca e la testa rovesciata indietro riprendeva il solito accennare da un lato o dall'altro. Dalla poltroncina presso il letto, Newcomer non lo perdeva d'occhio. Aveva di fronte un soggetto che doveva avere penato molto, faticato molto e verosimilmente negli anni giovani. Osservandolo ancora, gli sembrò di riconoscere in quel viso i tratti di ingenuità e caparbia, tratti un po' elementari, un po' ispirati, che lo avevano interessato per il loro esotismo in certi stacanovisti o eroi del lavoro, veduti in fotografia nei giornali. Mi spieghi, lei è comunista, ritiene che oggi l'ideologia si sia così radicata da improntare la fisionomia della gente? Insomma, avremmo una facies marxistica e un'altra, poniamo, neocapitalistica? Ferranini si volse lentamente, disse: abile dottore questo Newcomer. Mi trova con un poco di affanno e cerca di distrarmi. Ma vede, io forse non lo merito di chiamarmi comunista. Newcomer si sporse a dargli una manatina sui piedi, di buon umore. Bene, Ferranini. Come tutti gli uomini di fede, lei è tormentato dai dubbi. Si sente indegno. Qui, curato dai pagani, ospite dell'empia Babilonia dell'antimarxismo. Coraggio, non intendiamo farlo prigioniero. E pensi che ha sua moglie a due passi. Lui cercava le parole per rispondergli. Quando non si sta bene, dovere parlare una lingua forestiera, che fatica. Non scherzi, dottore. Entro 4 giorni devo andare via, altro che prigioniero. E andare via, pensava, era logico. Ci era preparato. E di lì a 4 giorni sarebbe ben stato in piedi. Il problema era diverso. Andare dove? Andare a fare che? Bel comunista, se Newcomer avesse saputo. E Nancy, sua moglie, che badava a chiamarlo honey, come dire tesoro. Mi mandi qualche cosa di buono da mangiare, dottore. Bisogna pure che mi tiri su. Mi faccia mangiare. Gli occhi di Nancy, sempre belli, verdi, erano però fissi, senza luce. Il collo e il viso avevano una bianchezza gessosa. Ma Ferranini non ci faceva caso. Badava a quel tono di lei, attento, persino con una inflessione di umiltà. Era forse adesso, pensava, il momento di essere contenti. Con una insistenza tenera gli aveva portato altri fiori, senza odore, garofani, che non gli dessero noia. Parlarono. Ma a raccontare, a riferirsi al passato, era solo lei. Di tutto ciò che aveva visto, provato in quegli anni, proprio l'Alaska ricordava più volentieri. Ma non per via di Francis, no. Perché l'Alaska è un'America nuova, pulita, senza miseria, senza classi. Ad Anchorage i dislivelli sociali sono minimi. Temperatura media annua 46 Fahrenheit, 8 centigradi. Anche il freddo contribuisce allo sterilizzarsi del privilegio. Gli alascani, per accennare agli Stati Uniti con i quali non hanno contiguità territoriale, dicono the 48 below, ossia i 48 stati sotto. Tornata a Boston, Nancy aveva fondato un quindicinale intitolato, appunto, the 48 below, dove un gruppo di prodi polemisti, tutti intellettuali, prese a dare battaglia al governo, ai ceti dominanti, per assicurare all'America, fra i tanti primati, tanta gloria, anche la giustizia sociale. La rivista aveva un doppio programma. In campo politico, gettare le basi di un movimento o partito che la ideatrice Nancy, anima dell'intera iniziativa, aveva battezzato National Laborismo. In linea di pensiero, fondare e divulgare la sociologia funzionale. La rivista, con tutto questo, non esisteva più. Aveva smesso di uscire da 6 mesi. «Proprio di tutto ti stanchi presto», fece Ferranini a occhi chiusi. Il povero viso bianco bianco di Nancy per un attimo prese colore. «Oh, Walter, non mi dire così. Non è stata mia colpa. La rivista era una cosa buona, una medicina necessaria per gli americani. Tu non sai che ignoranza ci fosse in fatto di realtà socio-economica. Era un dogma che gli USA fossero non solo la nazione più ricca, ma una nazione soltanto ricca, composta tutta di ricchi. Ora, noi abbiamo il 30% della ricchezza mondiale, certamente, contro il 5% della popolazione. Ma un terzo degli abitanti di questo paese versa in miseria comparativamente agli altri 2/3. Mi segui? Dico, Honey, mi segui? Ferranini aveva un gran bisogno di silenzio, che aumentava quando Nancy era lì. Un bisogno confuso di ritrovare, di riconoscere, tacendo, magari guardandola, ma in silenzio. Gli occhi di lui percorsero la vestaglina abbottonata, sotto cui trasparivano braccia, fianchi, petto, più larghi e gonfi di quelli della sua Nancy. Dove era mai andata la sua Nancy? «Non esistono le vie nazionali al socialismo?» seguitava lei. «Siamo tanto vicini, Honey, anche spiritualmente. La ragazza di un tempo, leggera e frivola, è scomparsa. Al suo posto c'è una donna e tu puoi stimarla. Potresti tenerla al tuo fianco con onore, qui o a Reggio Emilia, da qualunque parte. Vuoi sapere com'è avvenuta la mia conversione?» «La tua conversione», ripeté lui. E sentiva una gran tristezza. «Bene, è stato per la vergogna. Mi sono vergognata che il più potente paese del mondo, che si pretende guida dell'umanità, e lo è di fatto, fosse accomunabile agli altri nella non giustizia sociale. Un giorno mi scrisse una madre di famiglia. Erano in 10, marito, 7 figli, la nonna, e vivevano coltivando un pezzo di terra grande come il cortile qua sotto, 18 acri. Avevano bisogno di anticipi sul raccolto e ottenevano $20 la settimana con l'interesse del 10%. Forse faccio male a parlarti così delle faccende intime degli USA. Ti tolgo le tue illusioni. Di, faccio male?» Era seduta sulla poltroncina accanto al letto, le punte dei piedi infilate fra i 2 materassi. Si faceva vento col giornale piegato e lo fissava. Sinceramente, trepidamente interrogativa. Le stanze del John Morgan erano debitamente nitide e asettiche, ma in quella di Ferranini sopravviveva un ragno d'autunno, presenza inspiegabile per lui che non ricordava che lì sotto c'era un grande giardino. Il ragno era piombato nel bicchiere dell'acqua e lui dal suo letto cercava con un cucchiaino di mandarlo a fondo, cioè di farlo morire. Quello non ne voleva sapere, si sforzava di tornare su. Non c'è un ammalato che non si macchi di simili misfatti, ma la texana Miss Joy, avvenente infermiera, che sorprese Ferranini in quella flagranza, si affrettò a portargli via il bicchiere e a dire con finto candore: «È vero che gli italiani odiano gli animali?» Dove lui aveva risposto: «Sì, forse perché gli italiani non hanno i negri da sfogarsi». Un momento dopo si diceva: «Miss Joy non ha tutti i torti». E con una facile transizione trovava che, semmai, lui e il ragno erano stupidi nella stessa maniera. In quel volersi attaccare a una vita chiusa per loro e fuori stagione. A Newcomer aveva pur detto, anche quella mattina, quand'è che mi mettete fuori? E se c'era un essere vivo che non avesse un interesse a tornare fuori o a galla, era lui. Sono a zero. Mi hanno cavato tutto. Non ho un'idea che sbatta contro un'altra. E a parte le idee, non una speranza, una prospettiva a fargli lume. Non gli importava più di niente. Per essere precisi, non sentiva nessun impulso a guardarsi dentro o indietro, a fare il conto di ciò che gli restasse. Ferranini, convalescente faticoso, aveva di sé una coscienza non così torbida quanto torpida o riluttante. Una casa buttata giù, se uno ci si aggira con un rimpianto in cerca di qualsiasi oggetto rimasto, è qualche cosa. Ma il fatto è che per Ferranini le ultime giornate a Roma, il salto sull'Atlantico, l'incontro a precipizio con una desolata America nuova, sconosciuta, avevano soppresso tutto, livellato anche le rovine. Non aveva più nemmeno modo di dare un nome a quello che d'improvviso gli era mancato. Diceva Roma. Ma proprio perché la sua malattia morale, al pari dell'altra, era antica, certo covata da un pezzo, a sua insaputa, chissà dove in quella sua così semplice configurazione, proprio perciò Roma non bastava a individuarla. Era tutto un suo mondo che veniva meno. E la caduta implicava una varietà di circostanze, ragioni, in qualche misura ragionate, dedotte da lui con pena e stento, ma per lo più imprecisabili, evidenti al suo solo istinto. Ora tutto questo era bianco, senza più contorno né colore o rilievo, e la mente gli si rifiutava a tornarci. Un pensiero soltanto affiorava. Ricominciare? No, non ricomincio. Quella mattina, per la prima volta, Ferranini si era occupato di Nancy con un po' di buona volontà. Newcomer era via per il suo giorno di riposo, sicché Ferranini aveva dato l'incarico al dottor Wiener di mettersi in contatto col collega che curava Nancy, chiedere notizie precise del suo stato di salute e riferirgli. Wiener dovette interessarsene subito, perché già alle 10 squillava il telefono al 203. Era il medico di reparto del Green Pavilion, che aveva Nancy in cura. «Lei è il marito?» «Sì, sono il marito», rispose tranquillamente. «E che gliene importava? Cose più assurde ne aveva dette e gliene avevano fatte dir tante. Dunque, le condizioni della signora. I postumi dell'incidente che l'ha portata qui sono superati. Rimane acutamente lo stato ansioso e in questi casi la depressione si accompagna alla eccitabilità. Da qualche giorno sua moglie riposa male, dorme poco, è agitata. E io sono la causa», suggerì Ferranini. «Dovrei dire così, in un dato senso». «Capisco, dottore, provvederò». Avrebbe dovuto prevederlo. La sua presenza non le giovava. Dopotutto forse era meglio, visto che stava per partire. La avvertì che non venisse giù. Sarebbe andato lui a trovarla. «Oh, Walter, come sono contenta! Ti ospito nella mia camera!» Le disse che preferiva vederla a mezza strada, nella loggia, il passaggio coperto fra i due padiglioni, e attese per muoversi che fossero le 4 del pomeriggio. «Alle 4:30, pensò, la saluto e torno in camera mia». Uscì dopo 4 giorni di reclusione e non prese l'ascensore per raggiungere il piano di sopra. Si sentiva abbastanza in forze. Nancy era seduta in una poltrona, con i suoi giornali ancora piegati in grembo. I giornali lei non li dimenticava mai. Lo accolse col viso umido di lacrime. «Come sei buono! Come sei sempre stato buono con me!» «Me lo hai già detto, non ti agitare». La loggia era poco frequentata, non c'erano che loro. «Walter, così caro sei! Ricordi quella sera quando ti dissi, prima di addormentarci, che mi sentivo un'altra vocazione, che non ero nata per la vita di famiglia, e tu mi dicevi, per la vita di famiglia forse no, ma per l'amore sì, per il mio amore. Con tutta naturalezza si era slacciata la vestaglia in alto. Uno spiraglio sul petto si era aperto. Gli prendeva le mani, le stringeva. Honey, io ti ho trattato troppo male. Dico nel 45, quando andai a Boston. Me lo hai già detto, non ne parliamo più. A Ferranini sembrò una buona cosa che arrivassero giusto allora i giovani De Mar, in visita collegiale alla sorella. Ben tre, Salvatore, Nicola e Carmelo. Il padre De Mar aveva ottenuto di battezzare con nomi italiani, o piuttosto pugliesi, almeno i figli maschi, che di italiano, con una netta fedeltà all'ascendenza paterna nell'aspetto, serbavano parecchio del modo di fare espansivo e sbadato. Tutti e tre abbracciarono Ferranini. Nicola gli dichiarò, uno statunitense di stile anglosassone non lo avrebbe fatto, che aveva una brutta cera, doveva curarsi. Carmelo, il più piccolo, sui 20 anni, tirò fuori 6 uova da bere, comperate a Camden, sotto casa, da offrire a Nancy. Carmelo non ricordava Ferranini, ma gli altri lo ricordavano. Lo trattarono come un parente anziano, un po' sorprendente, un po' patetico. Salvatore, che era sui 30, con il più piccolo seguitava l'azienda paterna. Nicola faceva il medico. Raccontarono del padre. Stava meglio, adesso voleva prendersi un trailer o casetta su ruote e andare verso il sud. Sarebbe finito, dicevano, in qualche cimitero degli elefanti. Una di quelle città di vecchi dove la gente che non è più in grado di lavorare sta segregata in attesa di morire. Salvatore parlò delle difficoltà e dei successi della De Mar Incorporated, da poco allargatasi al commercio dei farmaceutici e del progetto di trasferire la sede da Camden a Filadelfia. E già Nancy aveva ritrovato la sua serenità. Rideva con Carmelo del regalo delle uova e a Salvatore dava consigli con una destrezza in materia di affari che meravigliò Ferranini. Proprio la mia compagnia la deprime, pensò. In un momento ha cambiato faccia. Del resto, l'arrivo dei fratelli aveva sollevato anche lui. Capì che da tempo cercavano di persuadere la sorella a mettersi con loro nella ditta e lei resisteva. Per il business non ci sono tagliata, ragazzi. Nicola, il dottore, pareva il più autorevole. Nancy, osservò, è la maggiore di noi. Bisogna darle il titolo di procuratrice. Poi aggiunse, e queste parole Ferranini fu sicuro di averle intese bene, l'importante è di mettere sotto chiave l'armadio degli ipnotici. Adesso la faccenda diventava chiara. Partiti i fratelli, le parlò senza mezzi termini. Quella intossicazione che hai avuto era sonnifero. Tu hai cercato di ammazzarti. E perché non me lo dicevi? Stavolta Nancy non prese il tono sentimentale. Rispose molto calma, molto semplice. È vero. Ma perché? Cos'è stato? È stato Francis? Glielo domandava sul serio, lontano da qualunque ironia. Si sentì rispondere. È stata Erika Stein, semmai. Era nel mio gruppo, la mia grande amica. Sosteneva anche lei la rivista. L'anno scorso si è tirata un colpo di rivoltella. E tu l'hai voluta copiare? Uno, disse lui, non si attacca alla vita perché un altro ci è attaccato e non si ammazza perché un altro si è ammazzato. Per me era un brutto periodo, anche questo te lo devo dire. Mi stavano facendo la guerra per la rivista che avevo fondato e che dirigevo. E quando è stato? Sino dai primi tempi mi hanno attaccata. E Salvatore, che è mio fratello, era uno di quelli che mi condannavano. Sono diventata famosa, tu non lo sai. Il Baltimore Weekly mi ha denunciata in un articolo alla Commissione per le attività antiamericane. Io, che mi battevo per l'onore del paese. Di certe cose non si deve parlare. E io commettevo il delitto di parlarne. Dicevo, l'America ha la forza, ma non la giustizia. Senza proprio diventare famosa, Nancy De Mar si era acquistata davvero una certa pericolosa notorietà negli stati dell'Est. Per mesi le piovvero sarcasmi e improperi da diversi giornali e lettere non sempre firmate, ma in genere poco riguardose, da bravi cittadini indignati, spesso terminate con l'invito, solito essere offensivo, va al Greenwich Village o va in Russia. La rivistina bimensile fu pretesto per calorose rievocazioni del senatore McCarthy e sue benemerenze, per appelli alle autorità che si decidessero a bandire il Socialist Workers' Party, dal quale la accusavano a torto di essere finanziata. In un dibattito organizzato dalla poco insigne Birch Society, un contraddittore villanzone, Nancy gli stava di fronte sotto il fuoco delle telecamere, urlò, indicandola con il dito: «Nessun maschio si offre a questa femmina, c'è caso che guarirebbe». Si intende che ci furono ostilità meno truculente, sebbene più efficaci. La compagnia che curava la distribuzione della rivista cominciò un larvato sabotaggio. La tipografia che la stampava denunciò, fu costretta dal proprio personale a denunciare, il contratto. Sino a quel momento si erano sostenuti da soli, con una tiratura che a volte toccava le 40.000 copie. Vennero a mancare i fondi e Nancy ci rimise del suo. Tirarono avanti un mezzo anno prima di arrendersi. Gli raccontò, poi concluse: «Me ne sono venuta a Camden per Natale e non mi sono più mossa. Ero sempre stanca da non reggermi in piedi e sempre eccitata. E nota che da un lato ero contenta di ritrovare i miei, dopo tanti anni che facevo la do-it-yourself woman, una camera con il cucinino, senza una cosa che mi appartenesse, senza un appoggio. Ma avevo preso troppe bastonate. Adesso mi pareva di dover avere paura di tutto, di tutti. Ero ammalata». Curvo nella sua poltroncina, sotto la vetrata, Ferranini si lisciava i ginocchi con le due mani e stava zitto. «Ti faccio pena, vero Walter?» Lui levò il braccio in un gesto circolare. «Tutto mi fa pena e schifo». Glielo avrebbe tradotto in inglese se avesse trovato la parola. Nancy comprese ugualmente e difatti disse, dopo un silenzio: «Lo sapevo che tu avresti giudicato il paese. Il paese e il sistema. E questo non lo volevo». Aggiunse: «Avrei voluto che tu fossi contento di essere qui di nuovo. Sai perché?» «Perché?» Il tono di Nancy tornò quello solito e così il suo sorriso. Prova a immaginarlo. Ma Ferranini non aveva nessuna curiosità. Maria Paiato ha letto Il Comunista di Guido Morselli, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio, Jacopo De Bertoldi e Ornella Bellucci. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.